Ad alta voce, Michela Cescon legge Le piccole virtù di Natalia Ginzburg. Prima puntata. Inverno in Abruzzo. In Abruzzo non c'è che due stagioni, l'estate e l'inverno. La primavera è nevosa e ventosa, come l'inverno, e l'autunno è caldo e limpido come l'estate. L'estate comincia in giugno e finisce in novembre. I lunghi giorni soleggiati sulle colline basse e riarse, la gialla polvere della strada e la dissenteria dei bambini finiscono e comincia l'inverno. La gente allora cessa di vivere per le strade. I ragazzi scalzi scompaiono dalle scalinate della chiesa. Nel paese di cui parlo, quasi tutti gli uomini scomparivano dopo gli ultimi raccolti. Andavano a lavorare a Terni, a Sulmona, a Roma. Quello era un paese di muratori e alcune case erano costruite con grazia. Avevano terrazze e colonnine come piccole ville e stupiva di trovarci all'entrare grandi cucine buie coi prosciutti appesi e vaste camere squallide e vuote. Nelle cucine il fuoco era acceso e c'erano varie specie di fuochi. C'erano grandi fuochi con ceppi di quercia, fuochi di frasche e foglie, fuochi di sterpi raccattati ad uno per via. Era facile individuare i poveri e i ricchi guardando il fuoco acceso, meglio di quel che si potesse fare guardando le case e la gente, i vestiti e le scarpe che in tutti, su per giù, erano uguali. Quando venni al paese di cui parlo, nei primi tempi tutti i volti mi parevano uguali. Tutte le donne si rassomigliavano, ricche e povere, giovani e vecchie. Quasi tutte avevano la bocca sdentata. Laggiù le donne perdono i denti a 30 anni per le fatiche e il nutrimento cattivo, per gli strapazzi dei parti e degli allattamenti che si susseguono senza tregua. Ma poi a poco cominciai a distinguere Vicenzina da Secondina, Annunziata da Addolorata, e cominciai a entrare in ogni casa e a scaldarmi a quei loro fuochi diversi. Quando la prima neve cominciava a cadere, una lenta tristezza si impadroniva di noi. Era un esilio il nostro. La nostra città era lontana, e lontani erano i libri, gli amici, le vicende varie e mutevoli di una vera esistenza. Accendavamo la nostra stufa verde col lungo tubo che attraversava il soffitto. Ci si riuniva tutti nella stanza dove c'era la stufa e lì si cucinava e si mangiava. Mio marito scriveva al grande tavolo ovale e i bambini cospargevano di giocattoli il pavimento. Sul soffitto della stanza era dipinta un'aquila e io guardavo l'aquila e pensavo che quello era l'esilio. L'esilio era l'aquila, era la stufa verde che ronzava, era la vasta e silenziosa campagna e l'immobile neve. Alle 5 suonavano le campane della chiesa di Santa Maria e le donne andavano alla benedizione coi loro scialli neri e il viso rosso. Tutte le sere mio marito ed io facevamo una passeggiata. Tutte le sere camminavamo a braccetto, immergendo i piedi nella neve. Le case che costeggiavano la strada erano abitate da gente cognita e amica e tutti uscivano sulla porta e ci dicevano «Con una buona salute?» Qualcuno a volte domandava «Ma quando ci tornate alle case vostre?» Mio marito diceva «Quando sarà finita la guerra?» «E quando finirà questa guerra? Te che sai tutto e sei un professore, quando finirà?» Mio marito lo chiamavano il professore, non sapendo pronunciare il suo nome, e venivano da lontano a consultarlo sulle cose più varie, sulla stagione migliore per togliersi i denti, sui sussidi che dava il municipio e sulle tasse e le imposte. D'inverno qualche vecchio se ne andava con una polmonite. Le campane di Santa Maria suonavano a morto e Domenico Recchia, il falegname, fabbricava la cassa. Una donna impazzì e la portarono al manicomio di Collemaggio e il paese ne parlò per un pezzo. Era una donna giovane e pulita, la più pulita di tutto il paese. Dissero che le era successo per la gran pulizia. A Gigetto di Calcedonio nacquero due gemelle, con due gemelli maschi che aveva già in casa, e fece una chiassata in municipio perché non volevano dargli il sussidio, dato che aveva tante coppe di terra e un orto grande come 7 città. A Rosa, la bidella della scuola, una vicina gli sputò dentro l'occhio e lei girava con l'occhio bendato perché le pagassero l'indennità. L'occhio è delicato, lo sputo è salato, spiegava. E anche di questo si parlò per un pezzo, finché non ci fu più niente da dire. La nostalgia cresceva in noi ogni giorno. Qualche volta era perfino piacevole, come una compagnia tenera e leggermente inebriante. Arrivavano lettere dalla nostra città, con notizie di nozze e di morti dalle quali eravamo esclusi. A volte la nostalgia si faceva acuta ed amara e diventava odio. Noi odiavamo allora Domenico Orecchia, Gigetto di Calcedonio, Annunziatina, le campane di Santa Maria. Ma era un odio che tenevamo celato, riconoscendo l'ingiusto. E la nostra casa era sempre piena di gente, chi veniva a chieder favori e chi veniva a offrirne. A volte la Sartoretta veniva a farci le sagnoccole. Si cingeva uno strofinaccio alla vita e sbatteva le uova e mandava Crocetta in giro per il paese a cercare chi potesse prestarci un paiolo ben grande. Il suo viso rosso era assorto e i suoi occhi splendevano di una volontà imperiosa. Avrebbe messo a fuoco la casa perché le sue sagnoccole riuscissero bene. Il suo vestito e i capelli si facevano bianchi di farina e sul tavolo ovale dove mio marito scriveva venivano adagiate le sagnoccole. Crocetta era la nostra donna di servizio. Veramente non era una donna perché aveva 14 anni. Era stata la Sartoretta a trovarcela. La Sartoretta divideva il mondo in due squadre, quelli che si pettinano e quelli che non si pettinano. Di quelli che non si pettinano bisogna guardarsi perché naturalmente hanno i pidocchi. Crocetta si pettinava. E perciò venne da noi a servizio e raccontava ai bambini delle lunghe storie di morti e di cimiteri. C'era una volta un bambino che gli morì la madre. Suo padre si pigliò un'altra moglie e la matrigna non amava il bambino. Perciò lo uccise mentre il padre era ai campi e ci fece il bollito. Il padre torna a casa e mangia, ma dopo che ha mangiato, le ossa rimaste nel piatto si mettono a cantare. «E la mia trista matrea mi ci ha cotto in caldarea, e lo mio padre ghiottò, mi ci ha fatto un bravo boccò». Allora il padre uccide la moglie con la falce e la appende a un chiodo davanti alla porta. A volte mi sorprendo a mormorare le parole di questa canzone e allora tutto il paese mi ritorna davanti, insieme al particolare sapore di quelle stagioni, insieme al soffio gelato del vento e al suono delle campane. Ogni mattina uscivo con i miei bambini e la gente si stupiva e disapprovava che io li esponessi al freddo e alla neve. «Che peccato hanno fatto queste creature?» dicevano. «Non è tempo di passeggiare, signor, torna a casa!» Camminavamo a lungo per la campagna bianca e deserta e le rare persone che incontravo guardavano i bambini con pietà. «Che peccato hanno fatto?» mi dicevano. Laggiù, se nasce un bambino nell'inverno, non lo portano fuori dalla stanza fino a quando non sia venuta l'estate. A mezzogiorno mio marito mi raggiungeva con la posta e tornavamo tutti insieme a casa. Io parlavo ai bambini della nostra città. Erano molto piccoli quando l'avevamo lasciata e non ne avevano nessun ricordo. Io dicevo loro che là le case avevano molti piani. C'erano tante case e tante strade, tanti bei negozi. «Ma anche qui c'è Girò», dicevano i bambini. La bottega di Girò era proprio davanti a casa nostra. Girò se ne stava sulla porta come un vecchio gufo, e i suoi occhi rotondi e indifferenti fissavano la strada. Vendeva un po' di tutto, generi alimentari e candele, cartoline, scarpe e aranci. Quando arrivava la roba e Girò scaricava le casse, i ragazzi correvano a mangiare gli aranci marci che buttava via. A Natale arrivava anche il torrone, i liquori, le caramelle, ma lui non cedeva un soldo sul prezzo. «Quanto sei cattivo, Girò!» gli dicevano le donne. Rispondeva: «Chi è buono se lo mangiano i cani!» A Natale tornavano gli uomini da Terni, da Sulmona, da Roma, stavano alcuni giorni e ripartivano dopo aver scannato i maiali. Per alcuni giorni non si mangiava che sfrizzoli, salsicce pazze e non si faceva che bere. Poi le grida dei nuovi maialetti riempivano la strada. In febbraio l'aria si faceva umida e molle. Nuvole grigie cariche vagavano per il cielo. Ci fu un anno che durante lo sgelo si ruppero le grondaie. Allora cominciò a piovere in casa e le stanze erano dei veri pantani. Ma fu così per tutto il paese. Non una sola casa restò asciutta. Le donne vuotavano i secchi dalle finestre e scopavano via l'acqua dalla porta. C'era chi andava a letto con l'ombrello aperto. Domenico Orecchia diceva che era il castigo di qualche peccato. Questo durò più di una settimana. Poi finalmente ogni traccia di neve scomparve dai tetti e Aristide aggiustò le grondaie. La fine dell'inverno svegliava in noi come un'irrequietudine. Forse qualcuno sarebbe venuto a trovarci, forse sarebbe finalmente accaduto qualcosa. Il nostro esilio doveva pure avere una fine. Le vie che ci dividevano dal mondo parevano più brevi, la posta arrivava più spesso, tutti i nostri geloni guarivano lentamente. C'è una certa monotona uniformità nei destini degli uomini. Le nostre esistenze si svolgono secondo leggi antiche ed immutabili, secondo una loro cadenza uniforme ed antica. I sogni non si avverano mai, e non appena li vediamo spezzati, comprendiamo a un tratto che le gioie maggiori della nostra vita sono fuori dalla realtà. Non appena li vediamo spezzati, ci struggiamo di nostalgia per il tempo che fervevano in noi. La nostra sorte trascorre in questa vicenda di speranze e di nostalgie. Mio marito morì a Roma nelle carceri di Regina Coeli, pochi mesi dopo che avevamo lasciato il paese. Davanti all'orrore della sua morte solitaria, davanti alle angosciose alternative che precedettero la sua morte, io mi chiedo se questo è accaduto a noi che compravamo gli aranci da Girò e andavamo a passeggio nella neve. Allora io avevo fede in un avvenire facile e lieto, ricco di desideri appagati, di esperienze e di comuni imprese. Ma era quello il tempo migliore della mia vita, e solo adesso che mi è sfuggito per sempre, solo adesso lo so. Le scarpe rotte. Io ho le scarpe rotte e l'amica con la quale vivo in questo momento ha le scarpe rotte anche lei. Stando insieme parliamo spesso di scarpe. Se le parlo del tempo in cui sarò una vecchia scrittrice famosa, lei subito mi chiede: che scarpe avrai? Allora le dico che avrò delle scarpe di camoscio verde con una gran fibbia d'oro da un lato. Io appartengo a una famiglia dove tutti hanno scarpe solide e sane. Mia madre, anzi, ha dovuto far fare un armadietto apposta per tenerci le scarpe, tante paia ne aveva. Quando torno fra loro, levano alte grida di sdegno e di dolore alla vista delle mie scarpe, ma io so che anche con le scarpe rotte si può vivere. Nel periodo tedesco ero sola qui a Roma e non avevo che un solo paio di scarpe. Se le avessi date al calzolaio avrei dovuto stare 2 o 3 giorni a letto e questo non mi era possibile. Così continuai a portarle, per giunta pioveva, le sentivo sfasciarsi lentamente, farsi molli ed informi, e sentivo il freddo del selciato sotto le piante dei piedi. È per questo che anche ora ho sempre le scarpe rotte, perché mi ricordo di quelle, e non mi sembrano poi tanto rotte al confronto, e se ho del denaro preferisco spenderlo altrimenti, perché le scarpe non mi appaiono più come qualcosa di molto essenziale. Ero stata viziata dalla vita prima, sempre circondata da un affetto tenero e vigile. Ma quell'anno qui a Roma fui sola per la prima volta. E per questo Roma mi è cara, sebbene carica di storia per me, carica di ricordi angosciosi, poche ore dolci. Anche la mia amica ha le scarpe rotte, e per questo stiamo bene insieme. La mia amica non ha nessuno che la rimproveri per le scarpe che porta, ha soltanto un fratello che vive in campagna e gira con degli stivali da cacciatore. Lei e io sappiamo quello che succede quando piove e le gambe sono nude e bagnate e nelle scarpe entra l'acqua e allora c'è quel piccolo rumore a ogni passo, quella specie di sciacquettio. La mia amica ha un viso pallido e maschio e fuma in un bocchino nero. Quando la vidi per la prima volta seduta a un tavolo con gli occhiali cerchiati di tartaruga e il suo viso misterioso e sdegnoso col bocchino nero fra i denti, pensai che pareva un generale cinese. Allora non lo sapevo che aveva le scarpe rotte, lo seppi più tardi. Noi ci conosciamo soltanto da pochi mesi, ma è come se fossero tanti anni. La mia amica non ha figli, io invece ho dei figli e per lei questo è strano. Non li ha mai veduti se non in fotografia perché stanno in provincia con mia madre e anche questo fra noi è stranissimo, che lei non abbia mai veduto i miei figli. In un certo senso lei non ha problemi, può cedere alla tentazione di buttare la vita ai cani, io invece non posso. I miei figli dunque vivono con mia madre e non hanno le scarpe rotte finora. Ma come saranno da uomini? Voglio dire, che scarpe avranno da uomini? Quale via sceglieranno per i loro passi? Decideranno di escludere dai loro desideri tutto quello che è piacevole ma non necessario? O affermeranno che ogni cosa è necessaria e che l'uomo ha il diritto di avere ai piedi delle scarpe solide e sane? Con la mia amica discorriamo a lungo di questo e di come sarà il mondo allora, quando io sarò una vecchia scrittrice famosa e lei girerà per il mondo con uno zaino in spalla, come un vecchio generale cinese, e i miei figli andranno per la loro strada, con le scarpe sane e solide ai piedi e il passo fermo di chi non rinunzia, o con le scarpe rotte e il passo largo e indolente di chi sa quello che non è necessario. Qualche volta noi combiniamo dei matrimoni fra i miei figli e i figli di suo fratello, quello che gira per la campagna con gli stivali da cacciatore. Discorriamo così fino a notte alta e beviamo del tè nero e amaro. Abbiamo un materasso e un letto e ogni sera facciamo a pari e dispari chi di noi due deve dormire nel letto. Al mattino, quando ci alziamo, le nostre scarpe rotte ci aspettano sul tappeto. La mia amica qualche volta dice che è stufa di lavorare e vorrebbe buttare la vita ai cani. Vorrebbe chiudersi in una bettola a bere tutti i suoi risparmi, oppure mettersi a letto e non pensare più a niente, e lasciare che vengano a levarle il gas e la luce, lasciare che tutto vada alla deriva piano piano. Dice che lo farà quando io sono partita, perché la nostra vita comune durerà poco. Presto io partirò e tornerò da mia madre e dai miei figli, in una casa dove non mi sarà permesso di portare le scarpe rotte. Mia madre si prenderà cura di me, mi impedirà di usare degli spilli invece che dei bottoni e di scrivere fino a notte alta. E io a mia volta mi prenderò cura dei miei figli, vincendo la tentazione di buttar la vita ai cani. Tornerò ad essere grave e materna, come sempre mi avviene quando sono con loro, una persona diversa da ora, una persona che la mia amica non conosce affatto. Guarderò l'orologio e terrò conto del tempo, vigile ed attenta ad ogni cosa, e baderò che i miei figli abbiano i piedi sempre asciutti e caldi, perché so che così deve essere, se appena è possibile, almeno nell'infanzia. Forse, anzi, per imparare poi a camminare con le scarpe rotte, è bene avere i piedi asciutti e caldi quando si è bambini.